abbiamo letto ieri questi due fondamentali capitoli. Il primo dei due capitoli si intitolava, l'abbiamo visto, Don da Rodolfo. Ecco, il secondo capitolo, ve lo dico ancora, viene detto due capitoli, perché ieri e subito dopo, e dico dopo il titolo, ma intanto cominciamo a vedere il commento. Saldezza possibile quella di Rodolphe, e osserviamo delle cose molto interessanti dal punto di vista stilistico in questo capitolo. Lei va e vuol chiedere soldi, ma è in realtà divisa, e qui è la finezza, è in realtà divisa fra la necessità di avere soldi e il fatto che si sente ancora in qualche modo attratta e innamorata da lui, insomma. E delle due preferisce credere al fatto che è ancora innamorata, e quindi proprio perché è innamorata è venuta lì, non per il fatto che è venuta a mendicare, questo è il punto. Per cui quando dice lui fece una spiegazione, lui fece una spiegazione della sua condotta scusandosi con termini vaghi, non potendo trovare di meglio, e lei si lasciò prendere dalle sue parole, e più ancora dalla sua voce, dallo spettacolo della sua persona, perché quando tu sei a contatto con una persona che ami, conta quello che dice, ma conta com'è la persona, come è disposto nei tuoi confronti. A volte nei dissidi coniugali o comunque di coppia, insomma, è molto più importante che il senso delle parole che vengono dette, molto più importante il modo con cui le si dice, la sincerità, lo slancio, perché se io dico alla persona con cui mi trovo in una relazione, non so, ti amo molto, ma essendo gelido, lo dicessi come, non lo so, passami una mela, allo stesso modo, è chiaro che evidentemente non otterrei lo stesso effetto. Emma vive, come tutti i personaggi toccati dalla passione, è la malafede. Malafede, sapete cosa vuol dire? Malafede vuol dire mentire agli altri, ma da Sartre in poi sappiamo che malafede vuol dire mentire a se stessi, prima di tutto. E quindi guardate questa frase come interessante: lei si lasciò prendere dalle sue parole, più ancora che dalla sua voce, dallo spettacolo, dalla sua persona, così che fece finta, elle fit semblant de croire, ou crut-elle peut-être, al pretesto della loro rottura. Allora, tu hai una persona che ti ha fatto un torto, partiamo da questo. Tu hai una persona che ti ha fatto un torto. Questa persona può essere l'amante, può essere un figlio, può essere un genitore. Se la persona si scusa, tu farai di tutto, o un amico, tu farai di tutto dentro di te per darle ragione. Per darle ragione. Perché stare in un rapporto positivo con una persona che ami è molto più piacevole, ovviamente, che stare in un rapporto negativo. Per cui dice, finse di credere, perché erano delle palesi balle quelle che stava raccontando Rodolphe, o forse, aggiunge, forse ci credette proprio, cioè si era così persuasa della bontà, delle ragioni di Rodolphe, che veramente si era persuasa. Ripeto, quando una persona è in un rapporto d'amore con te, ti ha fatto un torto, ti chiede scusa, tu fai di tutto per andarle incontro, perché ti è più comodo questo, no? L'odio, il rancore, l'ostilità non è comoda, non è comoda. E nella scusa che Camerata si nota la volgarità del luogo. Che ve l'ho già detto, ma è assolutamente opportuno che ve lo ripeta, che la visione che Flaubert ha del sesso maschile è nella quasi totalità una visione improntata al più crudo pessimismo. I maschi sono pessimi, questo è il punto, sono pessimi, sono volgari, sono stupidi. Chi vi fosse in questo atteggiamento di Flaubert anche una sua natura femminea, questo è stato detto e probabilmente vero. D'altra parte, per fare un discorso molto semplificatore, naturalmente da prendere per così, insomma, come indizio semplicemente, non vi dubbio che non si poteva conoscere l'animo di una donna dall'interno come lui ha potuto fare se non fosse stato questo omone altissimo, grosso, che pesava più di un quintale, se non fosse stato lui stesso anche un po' donna. Da questo punto di vista, quella famosa frase attribuita a Flaubert, che Flaubert non ha mai detto, che sapete, no? Madame Bovary, c'est moi, è abbastanza vero, cioè, insomma, gli amici poi hanno confermato, io conosco bene le donne perché sono un po' donna. Prendiamo sempre l'altro termine di paragone, e cioè l'Anna Karenina, no? L'Anna Karenina viene descritto da Ugo, che è Tolstoj, il quale tutto era fuorché donna, e viene descritta secondo una psicologia maschile. È molto interessante questo. Apollinaire è uno che descrive la sessualità femminile, per chi segue il corso di Apollinaire, essendo un uomo. Quindi, per esempio, la poesia che abbiamo letto, chi c'era quando leggevamo Alain Chercher des Obus, c'è qualcuno presente? Ecco, cioè la poesia sui 9 buchi o porte della donna è una cosa che una donna non sarebbe mai venuta in mente, mai venuta in mente. E invece è un uomo, sì. Questo per darvi un'idea, su un esempio molto pratico, concreto, una donna è imbarazzata, arrossisce, non solo, ma si sente crudamente oggettificata se l'uomo pensa che lei abbia 9 buchi, capite? Ecco, è difficile descrivere la psicologia dell'altro, le donne non sono capaci, gli uomini non sono capaci, reciprocamente. Flaubert è un caso abbastanza miracoloso, a cui dobbiamo aggiungere un ulteriore aspetto miracoloso. Non solo che riesce in quanto un po' donna a immergersi nella psicologia femminile, ma l'ultima cosa è questa, su cui conviene pensare. Anna Karenina, sempre il solito paragone, viene scritta da un uomo in età adulta. Madame Bovary viene scritta da uno sotto i 35 anni. Ora è vero che c'è uno scalino di almeno 15 anni fra quelli che voi siete adesso e quelli che erano una volta, no? Cioè i ventenni, voi se avete 20 anni nominalmente, ma per esempio per me che ho insegnato tanti anni all'università è come se ne aveste 10. Avete l'esperienza di chi ne ha 10. E questa è una cosa che si dice, non è una battuta, questo è stato dimostrato scientificamente che la maturità arriva molto molto più tardi. Ma scrivere sotto i 35 anni un libro del genere è un'impresa incredibile. Che conoscenza del rapporto coniugale doveva avere? Primo. Secondo, un dettaglio che vorrei che ricordaste molto bene. Flaubert non era sposato. Quindi come ha fatto uno non sposato sotto i 35 anni a essere così perfetto nella sua descrizione del matrimonio? Tolstoj era sposato, sento sempre lo stesso paragone. Non solo. Se prendiamo un bellissimo libro che vi ho consigliato di leggere, che è uno dei libri più, dei pochi libri belli, assolutamente se questo può contare, insomma, assolutamente lo scelgo, che è pubblicato negli anni 90, di quello che rimane probabilmente il migliore scrittore del mondo vivente, che è Philip Roth, e cioè Il teatro di Sabbath. Ecco, vedete che la descrizione del matrimonio è perfetta, ma è fatta da un uomo anziano, è fatta da uno che l'ha vista. Come si fa a descrivere sotto i 35, ripeto con tanta precisione? precisazione che vorrei farvi in questo passo che stiamo considerando è una precisazione che vale per tutto il romanzo. Attenzione, chi parla nel romanzo? Chi parla? Cominciamo a vedere in questa piccola scena qua. In questa scena che noi vediamo parlano tre persone. Parla Rodolfo, quindi con tutti i vezzi, i tic, le miserie, le bassezze della sua persona. Parla Emma, quindi parla uno dal punto di vista di Emma, uno parla dal punto di vista di Rodolfo e parla Flaubert, parla il narratore. Possiamo dire che nel romanzo ci si trova normalmente in questa situazione. C'è Flaubert che parla, quindi il realismo, che significa descrivere, secondo la poetica che tutti conoscete, descrivere le cose senza la presenza dell'autore, questo non significa affatto, nel caso di Flaubert almeno, questo non c'è alcun dubbio, che Flaubert non parli. Ci sono delle osservazioni che fa l'autore, no? E i personaggi, i singoli personaggi, Leon, Rodolfo, eccetera, parlano loro stessi, non attraverso la mediazione dell'autore. Ma Leon parla come Leon, Rodolfo come Rodolfo, eccetera, eccetera. Per cui, come vi ho detto a suo tempo, siamo in una situazione splendidamente simile, posso dire, a quella che era il modulo che avrete studiato a scuola, qualcosa, mi auguro, della commedia dell'arte. Nella commedia dell'arte, l'ho detto più volte, ma lo ripeto, c'è Arlecchino, il dottor Balanzone, no? Ognuno che cosa fa? Fa la sua parte. Il dottor Arlecchino fa sempre Arlecchino, Brighella fa sempre Brighella, chiaro? E quindi possiamo dire che Flaubert, adottando la commedia dell'arte, fa sì che i personaggi facciano sempre se stessi. Che cosa deve dire? Che quando noi sentiamo parlare Rodolfo abbiamo un senso di delizioso piacere, faccio un esempio casuale. Perché appena leggiamo la sua battuta diciamo dentro di noi: ecco, questo è esattamente quel che mi aspettavo che avrebbe detto. È il caso di Emma, parla come deve parlare. È il caso di Leo, parla come deve parlare. Questo modo martellante di far parlare i personaggi secondo il loro ruolo ha un effetto di realtà straordinaria. In che senso? Nel senso che ti sembra che siano personaggi vivi e che l'autore non c'entri nulla. Ciò non di meno, l'autore fa di tanto in tanto delle sue osservazioni e assume dei punti di vista. Quindi il realismo di Flaubert consiste nel fare parlare i personaggi laddove è possibile agire, parlare, agire naturalmente come ci aspettiamo che debbano fare. A questo si aggiunge il fatto che l'autore di tanto in tanto interferisce. La pagina che stiamo esaminando è in questo senso emblematica, perché quando Emma chiede a lui, anzi quando lui è chiamato a commentare il fatto che lei è stata male, fa una battuta che vorrei che voi giudicaste. Cioè, sta poveretta ha avuto la febbre cerebrale, vi ricordate, è stata malissimo, sono sofferto tanto, dice, in quella condizione, e lui risponde: la vita va così. Se il vostro ex amante vi avesse risposto in questo modo, come sareste rimasti? Lei come sarebbe rimasta? La vita va così. Ma l'avrebbe mandata a far culo. E qui capite che l'espressione mandare a, con due F, naturalmente, K, sapete, no? Cioè, il mandare a far culo è un'espressione insostituibile. Un'espressione insostituibile. Non si può dire manda al diavolo. No! C'è solo quello. No? Ma come la vita va così? Mi hai ridotto a un ceggetto la vita va così. Dopodiché lei insiste, ma questo è un brutalone, questo è un brutalone, è uno che ha il cervello di una mucca. E allora gli dice, ma com'è andata dopo la vita? È andata bene o male? E lui, come un bambino deficiente, risponde, ma così è così, né buona né cattiva è stata la vita. Vedete che Rodolfo fa Rodolfo, noi lo sentiamo vivere Rodolfo, e se per ipotesi dovessimo fare noi lettori, scrivere noi la prossima battuta di Rodolfo, forse saremmo capaci. E io avevo una volta pensato, avevo anche fatto con i miei studenti tanto tempo fa, avevo fatto questo esercizio, no? Cioè, continuate voi a scrivere delle battute in stile, per esempio qua, Rodolfo. Questo è fondamentale, il cercare di entrare nei meccanismi della letteratura è fondamentale, cercando di imitare lo stile dello scrittore, la canzone, come diceva Proust, la cantilena dello scrittore. E quando tu lo conosci bene lo scrittore, lo sai imitare, capite? Lo sai imitare. Conoscete la scrittrice, mi auguro per tutti voi, Virginia Woolf? Benissimo, ma lo so che la conoscete perfettamente. Ecco, allora tu leggi l'Incipit celeberrimo di Mrs. Dalloway, per esempio, no? La signora Dalloway disse che i fiori avrebbe portati lei. Questa frase è meravigliosa, dice tutta la secchezza, il tono posh, cioè in inglese snob, la malinconia, l'affettuosità trattenuta di questa signora che si appresta a fare sui suoi 50 anni una festa decisiva nella sua vita. La signora Dalloway disse che i fiori li avrebbe comprati lei, perché i fiori sono affari della padrona di casa che non può delegare a nessun altro. Così, nel caso di, sarebbe molto interessante se riusciste a scrivere una battuta al modo di Emma. Capite chi ama scrivere? Dall'altra parte, se siete qui, è anche per, mi auguro, imparare un po' a scrivere. Laddove voleste invece esercitarvi a sovrapporre mattoni in un esercizio di laterizio continuato, c'è un cantiere qui vicino che può attendere le vostre braccia, capito? Andiamo avanti. A un certo punto dice, come volevi che io vivessi senza di te? Qui è Emma che sta parlando. Non ci si può disabituare alla felicità. Ero disperata, ho creduto di morire, ti racconterò tutto questo, eccetera. Come giudicate questa frase da parte di Emma, non ci si può disabituare alla felicità? Che cosa denota una frase di questo genere? Chi me lo sa dire? Me lo dice Gio, ma senti, non c'è quest'oggi delle ragazze in prima fila, non c'è Rihanna, bastarda fortuna. E della professoressa Nani, quindi due volte bastarda e fottuta. Sono stato chiaro nella cosa? Siete pregati coloro che conoscono, avete capito bene? Sì, ma le due parole le avete capite, no? Non so se sono chiare. La prima è bastarda, la seconda è benissimo. Allora, volevo dire questo. Come giudicate, non ci si può disabituare alla felicità? Se io lo vedo scritto in un tema, una frase di questo genere, e mi è capitato di vedere una tesi di dottorato adesso in cui c'era un tono di questo genere, la candidata alla tesi di dottorato, questo è avvenuto verso le 11:30 del mattino, è stata mandata da me a apostrofo. F A apostrofo N W K ho commentato il suo tono e gli ho scritto vicino, o intelligente, una persona realmente colta, non dice non ci si può disabituare, ma parla come Magni. Ricordate che quest'idea del parla come Magni è fondamentale per scrivere bene, perché le persone che non sanno scrivere credono che scrivendo in punta di penna, chiappette strette da rompere una nocciola, se la metti non luce, una nocciola se la metti dentro, si scriva meglio. Non è vero, scrivono peggio, fanno vedere che sono burini. Burini, questa è una parola, tutto si può fare scrivendo, ma non. Oggi la vedo più allegra, c'è stata questa ripresa durante il corso dell'anno, è vero? Qualche forse anche no? Non è la cosa giusta, non è la cosa giusta. Tutto si può fare quando si scrive. Queste ultime lezioni mi lascio un po' andare. Tutto si può fare quando si scrive, virgola. Un po' forte la frase, ma non è forte. Anche scacazzare sulla pagina. Guarda, gli dice, questo è meraviglioso, gli dice, guarda, io rido. Perché dice io rido? Perché all'uomo nulla spiace di più che vedere la donna lagnosa. Una donna può tradirti anche, sto dicendo una cosa molto grossa, ma non lagnarsi. La donna lagnosa è insopportabile, allora deve dire che ride, che è nel pieno della sua contentezza e felicità. Il dialogo va avanti in questo modo meraviglioso fino a che interviene Flaubert, quando dice che lei era ravissante a voir, era fascinosa a vedersi col suo sguardo dove tremava una lacrima come l'acqua di un temporale in un calice blu di un fiore. E qui capite che non sta parlando Rodolfo, non sta parlando Emma, sta parlando lui che sta guardando i due personaggi, e nella fattispecie sta guardando Emma. Qui c'è la scena che abbiamo visto, lui crede che lei sia innamorata di lui e quando lei gli racconta tutta la storia delle cose, lui dice come non riesco a capire, perché nulla è più spaventoso che offendere una persona facendole credere, persona con cui ci sia stata una relazione, che tu sei lì per amore e poi invece fargli capire che non sei affatto lì per amore, ma sei lì per un altro motivo, sei lì per, avete capito, questo gesto credo che sia universale, vero? Se tu vado in India e fatto questo gesto qui, no? Credo che li capisco. Allora, c'è la frase di tutte le tempeste che possono scatenarsi sull'amore, la richiesta di soldi è la più terribile. Non solo sull'amore, anche sui rapporti vi voglio informare tra fratelli e sorelle. Sappiate che chi di voi ha fratelli e sorelle, un giorno, più tardi possibile evidentemente, i vostri genitori andranno a far compagnia agli angeli e da quel momento saranno problemi micidiali, perché nonostante si dica ah no, ma noi siamo uguali, facciamo tutto a metà, ci saranno sicuramente discussioni. Mai chiedere in prestito soldi, mai. Se uno è costretto a farlo deve restituirli nel tempo più rapido possibile. E qui c'è la scena, comincia il capitoletto a partire da Elle resta perdue de stupeur. Siamo alla pagina dopo, perché questo non c'è nulla da commentare. No, c'è una cosa da commentare. Ragazzi, c'è una cosa da commentare. Quando nel discorso che fa Emma, lei dice, ma io, sempre toni accesi romantici, io ti avrei dato tutto, avrei venduto tutto, eccetera, eccetera, e tu resti lì tranquillo, tranquillamente nella tua poltrona. Ecco, quello che... Ci siamo? Nel discorso che fa Emma. Quello che nessuna donna sopporta è che di fronte, in qualunque contesto, di fronte a un suo stato di angoscia, di ansia, l'uomo se ne freghi. C'è un'immagine che voi sapete dalle vignette, dalle barzellette, che attraverso la viscomica che percorre questi tempi avrete. È un'immagine vecchia, quella di due coniugi che sono a casa. Lei prepara la tavola, avviene questo in casa sua, questo fatto, e il papà legge il giornale. Quello è quello che la donna non perdona, cioè che lui non collabori. E avrete certamente sentito nelle vostre famiglie dei discorsi su questo tema che il rapporto coniugale deve essere un rapporto di collaborazione. Normalmente l'uomo si agita, fa, porta via la monnezza, fa delle cose. prepara la tavola, mette la lavastoviglie, qualcosa fa, ma è sempre poco rispetto a quello che fa la donna, la quale dice, insomma, io faccio tre lavori. Il primo è quello fuori casa, è il lavoro che faccio, il secondo è in casa e il terzo è cercare di piacere a te, quindi banchiere, compagnia bella. Quando sarete pratici del matrimonio saprete quanto sono vere queste osservazioni. A partire da El Resta Perdu c'è il nuovo capitoletto che si intitola Arsenico, punto esclamativo. E numero 43. La scena meravigliosa l'abbiamo vista. Ma in questa scena meravigliosa c'è comunque una cosa da dire. Ed è verso la fine. Guardate com'è questo passo. Arrivata, presa la chiave della farmacia, la chiave dell'armadietto della farmacia, e andò dritto verso il terzo scaffale, tanto il suo ricordo la guidava bene, che l'aveva già visto lì. Prese il boccale azzurro, ne strappò il tappo, vi ficcò dentro la mano, ritirando la piena di una polvere bianca, che si mise a mangiare direttamente. Fermatevi! Egli gridò gettandosi su di lei. Sta zitto, verranno. Si disperava a lui e voleva chiamare. Non dir nulla, la responsabilità cadrebbe sul tuo padrone. Poi si voltò, improvvisamente tranquilla e quasi nella serenità di un dovere compiuto. È la violenza con cui decide di morire. La rabbia, la violenza. In genere il suicidio ha sempre dietro una forte violenza. Se mi impicco, se mi butto dalla finestra, se mi butto sotto una macchina. C'era un libro dell'Ottocento di grande interesse che si chiamava Il suicidio di Durkheim, un sociologo, e in cui diceva che in fondo il suicidio è l'estremo colloquio che uno ha con la collettività, e la vendetta contro la collettività, non mi hai accettato e allora mi uccido. Quando si prende il veleno, le pillole del veleno uno le caccia nella propria bocca, le 30, le 40 pillole. Il suicidio ha bisogno di violenza, perché altrimenti non può avvenire. E c'è questa violenza proprio in questo mangiare direttamente l'arsenico, mangiarlo direttamente. Ma a questo punto occorre dire che la scienza medica di Flaubert viene fuori, perché la descrizione è mirabilmente precisa. Perché, pratica qualcuno di voi di arsenico? Capita di prendere un po' di arsenico di tanto in tanto? In dosi omeopatiche, non è abbastanza sbagliata la risposta. Flaubert prendeva l'arsenico in dosi omeopatiche perché voleva sapere i sintomi che avrebbe avuto una donna. Prima la bocca diventa piena di pelino, di pelino non succede. Poi si comincia ad avere un pesante gusto come di inchiostro nella bocca. Poi, in una fase successiva, cominciano a venire dei piccoli sforzi di vomito, ma non si vomita. Dopo si comincia a vomitare, fino a vomitare sangue, mentre la pelle diventa grigia e come con una patina d'argento sulla pelle stessa. Si trema, il battito del cuore diventa rallenta e poi diventa veloce, soggetto a degli sbalzi molto forti. Se si sfiora lo stomaco, la persona urla orrendamente, ma solo a sfiorare lo stomaco. Lo stomaco letteralmente esplode, si spacca. Questa è la descrizione che viene fatta della morte di Madame Bovary. Quando il marito deve arrivare a casa e lei si stende sul letto e dice: ho scritto questa lettera per te, ma tu non devi aprirla adesso, questa lettera è per domani. Il marito lì per lì non capisce altro che sta male, ma naturalmente non ha alcuna idea del perché stia male, del perché stia male, e chiama il farmacista. Chi potrebbe chiamarcelo qui? Il quale fa l'idiota, cioè il farmacista, che è un uomo che crede fortemente, ateo, come sapete, che crea deista per la verità, che crede fortemente alla scienza. Quindi dice: c'è un avvelenamento, ci vuole un antidoto. Ma qual è l'antidoto? Qual è il livello dell'avvelenamento? Poi dice un'altra cosa: bisogna fare le analisi. Ma come le analisi? Sta in quelle condizioni, fai le analisi. Ma lui sapeva, dice Slaubert, che dopo ogni avvelenamento bisogna fare delle analisi. Intanto lui, poveretto, continua a dire: salvatela. E arriviamo al capitoletto 44, che inizia con questo capoverso: Charles voulut feuilleter son dictionnaire de médecine. Ci siamo? Charles voulut feuilleter son dictionnaire de médecine. C'è qualcuno che dice la pagina? Non c'è Adriana, perché sempre lei. Charles volle sfogliare il dizionario di medicina, ma non vedeva niente, le righe danzavano. Calma, disse il farmacista, si tratta soltanto di amministrare qualche potente antidoto. Qual è il veleno? Charles mostrò la lettera. Era arsenico. Ebbene, riprese Homais, bisognerebbe fare l'analisi, perché sapeva, che bisogna in tutti i casi di avvelenamento fare un'analisi. E l'altro, che non comprendeva, rispose: ah, fate, salvatela. Poi, tornato in camera sua, si accasciò per terra sul tappeto e restava con la testa appoggiata al bordo del letto, singhiozzando. Non piangere, ella gli disse, presto non ti tormenterò più. Perché? Che ti ha forzata? Ella replicò: era necessario, amico mio. Non eri felice? È colpa mia. Io ho fatto tutto quello che potevo, tuttavia. Sì, sì, è vero, tu sei buono, tu. Ella gli passava la mano nei capelli lentamente. La dolcezza di quella sensazione annullava la tristezza. Egli sentiva tutto il suo essere scrollarsi di disperazione all'idea che bisognava perderla, quando al contrario confessava a lei per lui più amore che mai, e non trovava niente, non sapeva, non osava. L'urgenza di una risoluzione immediata finiva con lo sconvolgerlo. L'aveva piantata, pensò lei, finalmente, con tutti i tradimenti, le bassezze, le innumerevoli cupidigie che la torturavano. Non odiava nessuno adesso. Una confusione di crepuscolo s'abbatteva nel suo pensiero e di tutti i rumori della terra. Emma non sentiva più che l'intermittente lamento di quel povero cuore dolce e distinto, come l'ultima eco di una sinfonia che si allontana. Charles. Non eri felice? È colpa mia? Ho fatto tutto quello che ho potuto? Ecco, questa è la domanda che si può fare nella sua ingenuità. Un uomo come Charles che pensa questa donna sta bene economicamente, è oggetto delle attenzioni del marito, fa l'amore con il marito, che cosa le manca? Che cos'è la felicità? Per Charles è questo, ma per lei no. La felicità non è essere amati, come molti giovani nella loro inesperienza spesso credono. L'essere amati è una contingenza. L'unica felicità, dice Flaubert, è amare, non essere amati. Eri felice, chiede, non eri felice. È colpa mia. Vedete che quest'uomo buono è disposto ad accollarsi tutta la colpa della situazione. E poi dice la frase in cui rivela umilmente i suoi limiti. Dice, ma io ho fatto tutto quello che potevo. Vedete insieme queste tre frasi. Non eri felice? Primo. Secondo, è colpa mia? Vuole subito, è disposto ad accusarsi, e poi però dice, ma io non so se è colpa mia, io però ho fatto tutto quello che potevo. Lei, per la prima volta nel romanzo, è buona con lui. Il passo è molto significativo. È la prima volta nel romanzo. In realtà quando si è sposata aveva dei pensieri gentili per lui, amorosi, perché spezzettava, vi ricordate, dei fiori e glieli dava dalla davanzale della finestra, però sembra più che altro un rito di persuasione che è innamorata, di autopersuasione. E comunque parole non ne dice, fino a parole sgarbate che pronuncia nel ballo della moglie Sars, lo ricorda? Quando gli dice che lui aveva i supplì, aveva le, come l'abbiamo tradotto, non mi ricordo, le staffe, aveva le staffe, e la prima parola che sentiamo di lei sono ma pianta la voler ballare, era l'unica cosa che, era l'unico divertimento per lui che dovette starsene in piedi tutta la sera, non potendo ballare perché lei gli aveva vietato. Ma qui, prima di morire, lei gli dice sì, tu sei buono. Guardate questa frase così semplice, come è perfetta, perché in questa frase, ve la rileggo, lui c'est vrai, tu es bon, toi. Tu sei buono, in contrapposizione a Rodolphe, a Léon, agli altri che sono malvagi, tu sei buono, e gli carezza i capelli. E gli atti amorosi possono essere infinitamente più significativi, quelli che sono una carezza sui capelli, come ben sapete, che l'arroganza della donazione del proprio corpo bello nel coito. Quell'atto può essere niente ispirato all'amore, ma semplicemente al piacere o all'abitudine. Ma una carezza sui capelli mentre stai per morire è una cosa indimenticabile. Lui infatti ricorderà proprio questo, la carezza sui capelli, no? Si sentiva di doverla perdere e diceva a se stesso, ma come, proprio adesso che mi ama più che mai io devo perderla? E sentiva, il verbo qui è splendidamente scelto da Flaubert, si sentiva se crulli, crollare. Il verbo crollare noi l'abbiamo in mente legato a un edificio. In un terremoto un edificio crolla. Un edificio è fatto di fondamenta, di muratura, di colonne, di piani. Cosa vuol dire che, l'avete visto milioni di volte, che crolla? Vuol dire che le colonne, i pilastri portanti cedono, si accartocciano su se stessi e quindi i piani vengono giù, no? Adesso immaginate questo verbo applicato a una persona. Cosa vuol dire che una persona crolli? Vuol dire che fisicamente non non ce la fa più a stare in piedi. Quando noi abbiamo un grande dolore, spesso non ce la facciamo a stare in piedi, non ce la facciamo, dobbiamo, cadiamo per terra, no? E ci sentiamo soprattutto che non riusciamo ad appigliarci a niente. Quando abbiamo un grande dolore, ve l'ho preavverto per i tristi tempi che purtroppo vi attenderanno nella vita, manca il respiro e lui sente crollare la sua persona, mentre proprio avrebbe voluto in quel momento averla per sempre. È la Anadefina. E qui chi è che parla? È lei, è lei. È lei che parla e compiange se stessa con rabbia e dice: l'aveva finita, l'aveva piantata finalmente con tutte quelle bassezze della sua vita, con le innumerevoli cupidigie. A me gli occhi un momento su questo punto che è molto importante, le innumerevoli cupidigie, l'adulterio, che credo che un po' mi conosciate, per poi immaginare che sia moralistica, è una gran brutta cosa, è brutta quasi quanto il matrimonio. Un po' meno della vita da sì, da scrivere sullo spaccato del lei. Nell'adulterio tu conosci dei piaceri da parte dell'altra persona e quando poi devi tornare dal coniuge è spaventoso. Perché anche senza volerlo, perché ti sembra ripugnante, volgare, fai dei confronti miserandi fra il membro di lui e il membro dell'altro, l'odore dell'uno, l'odore dell'altro, la gentilezza dell'uno, la distrazione dell'altro. Quindi il malcapitato, lo sventurato, nel caso che una donna sia un uomo, avrà esattamente l'opposto, diventa l'oggetto del tuo odio, cioè l'altro. Tante volte si vedono, ha ucciso il marito per stare con l'amante. La storia dell'umanità è piena di cose di questo genere. Io volevo sottoporvi questa considerazione. Quanto è vera questa affermazione? Ha ucciso il marito, ce ne sono migliaia di omicidi di questo genere, per stare con l'amante. È senz'altro vero. Ma non è esaustivo. Io la correggerei con questa postilla: ha ucciso il marito per stare con l'amante. Postilla: ha ucciso il marito perché non sopportava più il senso di colpa del suo tradimento. Non voleva più vedere in una persona fisica incarnato il suo senso di colpa. Professore, come ti intitola questo capitolo? Avete, scusate, chi avete fatto le cose su quelle capitolo? Avete visto che quindi sarà a disposizione delle fotocopie sul... per quanto riguarda il libro di Sargento di Senso. Gli altri documenti che dobbiamo portare all'esame, per comprare tutto il libro, possiamo anche vogliare, no? Quale documento? Per gli altri libri, gli altri raggiorenti vari, dobbiamo portare il libro? Questo capitolo, aspettate che non ci sono, questo è il 48. Non è felice, punto interrogativo. Thank you.